24 mattino. L'Italia si desta. E buona giornata, benvenuti a Radio 24, eccoci, buona giornata Dan Migliorati. Niente Alessandro Milan questa mattina, ma i giornali sono qui anche i nostri ospiti e con Radio 24 siamo pronti a cominciare anche questa giornata. Come sempre il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, numero verde 800-24-0024, è questo il momento per dire la vostra su cosa sta succedendo in Italia. Siamo in una palude, come scrive oggi Libero Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Un arrabbiatissimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno. Buongiorno. Beh, in qualche modo corrisponde al vero però, Rienzi, perché abbiamo letto tutti ieri che il Codacons se l'è presa con Renzi e forse ieri siete stati gli unici a non prendersela per la legge elettorale. Cosa vi ha fatto Renzi? Rienzi, anche il gioco non è male. Ma no, ma è stata questa lettera agli 8.000 sindaci per dire segnalate una scuola che dobbiamo mettere a posto, da mettere in sicurezza. Esiste un elenco del Ministero sul nostro sito di migliaia di scuole che sono state indicate, individuate come con la necessità di essere rimesse a posto. Allora, o è una propaganda, vabbè, ma non a spese dello Stato con la lettera, 8.000 lettere che costano. Il problema è il francobollo, vero? Non è solo il francobollo, ma anche la carta, la gente che ci ha lavorato. Come dice sempre Alessandro Milan, la carta costa, la carta costa anche la lettera da spedire ai sindaci. Insomma, voi dite l'elenco delle scuole c'è già, smettiamola con queste lettere, 8.000 in... È una provocazione per dire ma voi ci vuoi prendere in giro, cioè ci stanno gli nomi una per una sul nostro sito del documento del Ministero con tutte le scuole che devono essere messe a posto e tu scrivi ai sindaci, allora gliel'abbiamo mandato noi l'elenco. Possiamo farlo anche noi, 349-238-6666, quale scuola volete mettere in ordine, insomma, messa così ognuno può fare la sua lista e ognuno ha la sua scuola, ci scommetterei, Vabbè, ho capito, ma non spendere soldi inutili, a parte che è una provocazione, nel senso che si sa benissimo quali sono le scuole che devono essere messe in sicurezza, che sono pericolose. C'è un elenco preciso che da 2 anni e non lo fanno, abbiamo dovuto fare una causa al TAR, al Consiglio di Stato, l'abbiamo anche vinta. Cioè, ecco, se comincia così, comincia col piede sbagliato, Renzi. Non si può fare propaganda su un problema così serio come quello delle scuole, che ogni tanto poi ne cade una e ammazza qualcuno. Le scuole fatiscenti sono un problema serio. Non si scrive ai sindaci per chiedere quali sono le scuole da mettere a posto, insomma. E vedremo se partiranno lettere anche per decidere cosa fare della legge elettorale, chi lo sa. Sì. Oggi mi pare che abbia fatto un passo in avanti per portare a casa il risultato, per cui sinceramente le polemiche di oggi non le capisco, però mettiamola così. Oggi si è fatto un passo in avanti significativo, vediamo se entro venerdì ci sarà la legge elettorale, come io spero no. Spero che il Parlamento non faccia ulteriori dilazioni e si chiuda dopo 20 anni la pagina delle riforme istituzionali, costituzionali e elettorali. Rienzi, non si illuda, parlava della legge elettorale, per le scuole per il momento ci sono le lettere. Massimo De Manzoni, Renzi nella palude, titolate questa mattina sul Libero, ovviamente non si parla di scuole ma di riforma elettorale. Palude, cominciata malissimo. Ma è cominciata male, sì, ma anche questa affermazione, non capisco le polemiche, io non capisco chi non capisce le polemiche. La legge elettorale di cui parla Renzi è una legge azzoppata, se sono messi d'accordo solo per la Camera, non per il Senato. È chiarissimo che l'orizzonte è quello di abolirlo il Senato, ma fin tanto che questo non succederà, e coi tempi del nostro Parlamento e con la voglia che hanno i senatori di autoabolirsi, nessuno può mettere la mano sul fuoco che questo verrà in tempi brevi, ma comunque anche se venisse in tempi brevissimi sarebbe un anno e mezzo, nel frattempo abbiamo una legge mostro, altro che il Porcellum, abbiamo due sistemi completamente diversi per Senato e Camera, quindi la famosa promessa il giorno dopo la mattina delle, dopo le elezioni saprà chi, chi ha vinto, è già carta straccia. Aggiungiamoci altre mosse non proprio felici come quelle della formazione del governo, i sottosegretari, che ancora non è finita perché... E non è Gentile, finita, esatto. Gentile si è dimesso, ma non, non si capisce perché la Barraccio sia al suo posto e con lei altri tre segretari indagati. Cioè, la partenza del governo Renzi lascia a bocca aperta per molti motivi, ma non per quello che pensavamo ci lasciasse a bocca aperta, cioè per la felicità e rapidità di buone soluzioni. Buone soluzioni non se ne vedono, si vedono abbastanza pasticci. La legge elettorale è uno di questi pasticci, tra l'altro un pasticcio che si rivolterà contro Renzi, perché se vuole veramente procedere velocemente a riforme, l'arma della, di ricatto, se lo vogliamo chiamare così, di ricatto politico di una legge elettorale funzionante e vera, con la quale poter dire se non si fanno le riforme si torna a votare, lui non ce l'ha più in questo momento. A metà. Eppure sentite un po' cosa ha detto Alfano ieri sera. Renzi è stato molto bravo nell'imporre il ritmo, il tempo, come accade nelle orchestre. C'è il direttore che deve segnare il tempo, lui lo ha segnato, e devo dire che un'altra abilità di Renzi è stata quella di tenere insieme la maggioranza di governo con un sostegno più ampio che io condivido da parte di forze che non sostengono il governo ma che danno una mano d'aiuto sulla legge elettorale. E allora vediamo se riusciamo a mettere d'accordo Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, con Il Fatto Quotidiano. Il vostro titolo su Libero questa mattina è Renzi nella palude. Il Fatto Quotidiano titola: l'accordo Renzi-Alfano-Berlusconi vietato votare. Siamo lì. Diciamo che Libero e Il Fatto Quotidiano questa mattina la pensano un po' allo stesso modo? Devo dire che su Renzi non solo questa mattina, cioè se guardate in parallelo i due giornali negli ultimi tempi sono forse più critici nei confronti del governo Renzi, però noi cerchiamo di esserlo sui fatti e i fatti sono questi, cioè non è che l'apertura di credito teorica c'è, nel senso che la speranza che Renzi possa fare qualcosa di buono per il paese ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro. Oggi pubblichiamo tra l'altro noi un lavoro impressionante dal punto di vista giornalistico, tutte le aziende italiane che sono passate in mano straniera. Il saccheggio delle aziende italiane. Negli anni della crisi. 830 marchi. Esatto, con i soldi che sono stati pagati e le nazioni a cui sono andati. Domani pubblicheremo anche le acquisizioni italiane che ahimè purtroppo staranno su una paginetta perché sono un po' meno. Allora, la certificazione di una crisi da cui dobbiamo uscire, per cui figuratevi se noi non siamo contenti, non saremmo contenti di un premio che finalmente allora un nostro ascoltatore 349-238-6666 scrive: forse Renzi è più intelligente di quanto non pensino. Speriamo, tutti stiamo a guardare, che qualcuno ci porti fuori dalla crisi, non è che proprio ci dispiaccia. Ma io non penso che sia scemo, penso che sia molto intelligente, non vorrei che fosse anche molto furbo e che quindi la sua intelligenza la mettesse a servizio non tanto del paese quanto di un suo disegno politico di durata che... Però a noi interessa poco se non porta risultati. E non è molto diverso da quello che diceva Renzi sulle scuole, in qualche modo. Questa cosa del saccheggio delle aziende italiane, come la vedete, Renzi? Libero oggi effettivamente dà questa notizia che sono dati messi insieme, ma che in qualche modo un quadro lo fanno. Dal 1 gennaio 2008 a oggi sono passati in mano straniera 830 marchi. È colpa solo della globalizzazione? Dobbiamo essere felici, come dice qualcuno, perché l'Italia piace all'estero? Ma io credo che ci sia un valore enorme nelle aziende italiane, questo è il punto, ma noi ci ricordiamo dall'industria del ferro alla manifatturiera, cioè noi abbiamo dei valori enormi che all'estero si comprano perché da noi con la contaminazione della politica, la difficoltà anche di andare avanti per le pratiche burocratiche, vediamo tutte queste piccole aziende di eccellenza che ci sono nel nord-est e così via, finiranno tutte per andare male, per fallire, quindi è evidente che si vengono qui e ci comprano. Questo è un danno e un guaio gravissimo, quindi a parte le elezioni noi vorremmo tanto che si parlasse di questo, e devo dire che a noi delle elezioni poi non ce ne importa, noi cittadini più di tanto. Quali elezioni? Perché siamo in campagna elettorale per le europee, sì, ma ricordiamoci che anche quella vale. Lasciamo stare le europee, qui si fa finta di fare leggi elettorali per andare alle elezioni, ma non andranno mai alle elezioni. Vietato allora, votare. No, non ci fanno votare fino alla fine della legge perché non vogliono perdere la poltrona, quindi noi ci dobbiamo preoccupare dei piccoli diritti, noi ci dobbiamo preoccupare dei soldi che non ci sono, non ci dobbiamo preoccupare delle bollette che arrivano gonfiate, delle cartelle di Equitalia. Adesso per esempio, e questo lo voglio dire per i vostri ascoltatori, c'è la possibilità per gli azionisti di Fonsai e Unipol, che sono stati, e di Fondiaria Sai, scusi, di Milano Assicurazione, che sono stati gabbati, hanno perso tutto il valore della loro azione, di costituirsi parte civile a Torino. Devono farlo subito, vadano sul nostro sito, perché dobbiamo recuperare quel po' di soldi che ci hanno rubato, un po' di qua, un po' di là. Siamo diventati un ufficio di assistenza per il recupero di soldi rubati, che è una cosa veramente triste. Sì. C'è un'altra cosa veramente triste. Oggi l'Italia potrebbe tornare ancora una volta in infrazione in Europa. Il Sole 24 Ore è abbastanza netto. Bruxelles aprirà oggi un fascicolo, nuovo richiamo all'Italia, troppi squilibri, tanto per cambiare, costo del lavoro, giustizia, banche, debito, ma torniamo ancora lì, le riforme, costretti alle riforme, scrive oggi, condannati a cambiare, scrive oggi La Stampa. Torniamo De Manzoni ancora lì a Bruxelles, ancora ultimi della lista? Non è una, ci comprano le nostre imprese, ma come sistema paese finiamo ancora in coda. Siamo lì. Il problema è esattamente questo, ma quello che dobbiamo fare, quello che c'è da fare in questo paese ormai lo sanno tutti, per quello che gli occhi sono puntati su questo nuovo governo che in maniera così anomala è venuto alla ribalta, perché quello che c'è da fare lo sanno tutti, il problema che abbiamo è farlo, e farlo anche in tempi molto rapidi possibilmente. E di questo ci aveva illuso Renzi, e su questo verrà misurato, e su questo sta cominciando a deludere, perché la riforma elettorale lo sappiamo, non è la priorità degli italiani. Ma da lì bisogna parlare. Ogni tanto forse agli italiani piacerebbe ormai essere chiamati a esprimere il loro parere, visto che da un po' di tempo con le lettere, come le scuole, con le lettere, forse non più un governo, però forse chissà se Carlo Rienzi ce li concede i francobolli per questo. 24 mattino. C'è di nuovo sciopero, l'avete sentito, vi aggiorneremo nel corso della giornata. Di nuovo mezzi pubblici fermi. Rienzi un francobollo lo darebbe al governo per sentire che ne pensano gli italiani? Non c'è bisogno, perché c'è bisogno. Un sondaggio che abbiamo fatto noi con 8.800 italiani. Gli mandiamo anche qualche podcast di 24 mattino se lo vogliono. Gli mandiamo anche quello, gli mandiamo anche questo. Non perdesse tempo e soldi, dice che vuole risparmiare il denaro pubblico, facesse i tagli forti a queste spese, basta con tutti questi soldi alle regioni, alle province. Deve essere drastico su questo, ci siamo illusi, secondo me pure con Renzi, sta ricadendo nella stessa palude, come ha detto qualcuno poco fa, degli altri. Quanto gli abbiamo dato? Tre settimane. Tre settimane gli abbiamo dato. Rivediamoci tra 6 settimane. Vediamo fra 6 settimane. Le ricette dei nostri ascoltatori, 349-238-6666. A noi solo l'Europa ci può cambiare, altro che uscire. Ma qualcun altro scrive, per risanare l'Italia ci vorrebbero 10 anni di dittatura. Beh, 10 anni di dittatura, speriamo di no, però io vi leggo qualche altro dato, come abbiamo letto quelli di Libero che sulle imprese comprate con lo shopping all'estero. Ieri l'Europa, ancora una volta, e torniamo ancora lì, ha stilato una classifica sull'innovazione, quali sono le regioni, gli stati che innovano di più, dove siamo in coda. Il vecchio continente sta colmando il divario con Giappone e Stati Uniti, in Europa si salvano 3 regioni, Piemonte, Emilia e Friuli. Massimo De Manzoni, è ancora un problema anche di quale pezzo d'Italia, o è un discorso che dovremmo lasciar perdere a questo punto? No, il problema anche di quale pezzo d'Italia c'è. Il nord-est, che per a lungo ha trainato il nostro paese, è in crisi di modello, perché sono in crisi, è in crisi di modello dei piccoli proprio. La globalizzazione, infatti molte delle aziende che sono state comprate anche nel nord-est. La globalizzazione ci ha costretti, ci costringerebbe, per meglio dire, a rivedere il sistema, e da quel punto di vista c'è anche un difetto di capitalismo italiano che è molto individualista, molto creativo, ma fa poco sistema, poca aggregazione, e quindi si trova in difficoltà in una situazione come questa. Ma ancora una volta al di là delle colpe specifiche che possono avere anche gli imprenditori, è il sistema paese che non funziona. Molto spesso in questi casi qui le aggregazioni vengono anche favorite da un governo attivo sul campo. Noi non abbiamo mai visto niente del genere. Allora, le aziende le abbiamo perché ce le comprano, abbiamo anche gli italiani, perché leggo dal Sole 24 Ore, ma la notizia c'è anche su altri quotidiani ovviamente questa mattina: la Apple ha affidato a un italiano un tesoro da 160 miliardi. Luca Maestri sarà lui a gestire l'azienda simbolo del high tech. Allora, le menti ce le abbiamo, le aziende ce le abbiamo. Ci manca un po' la politica, che se ne dica, perché poi ci sono i difensori oltranza dell'Europa. Se non cresciamo più da quando siamo entrati nell'euro, un motivo anche ci sarà. Noi siamo entrati in un modo sbagliato, evidentemente, con un cambio sbagliato, e certe regole in questo momento di crisi probabilmente sono anacronistiche e soffocano in particolare paesi dal debito alto come il nostro, che però, ricordiamoci, il debito alto ce l'abbiamo da decenni, eppure abbiamo avuto periodi in cui questo limite non era così, anzi, diventava quasi per certi versi uno stimolo. È chiaro che dobbiamo ridurre il debito, non sto dicendo questo, ma probabilmente certi parametri in momenti di crisi sono assurdamente rigidi e andrebbero rivisti. Allora, Renzi, d'accordo. Poi si comprano gli F-35, 100 miliardi di euro, ma è una cosa folle, cioè si possono dare pare 150.000 posti di lavoro. Ma che ci dobbiamo fare con sti caccia americani che non comprano più nemmeno gli americani e tutti gli altri paesi? Ecco, su questo nessuno riesce a dire e a fare nulla. Migliaia e milioni di italiani firmano contro queste cose. Renzi, Grillo e gli altri dicono di voler... Siamo al terzo francobollo. Questa volta lo spediamo noi però la lettera. Sì, la spediamo noi la lettera dicendo basta con questi sprechi, non buttare i soldi per gli aerei per fare le guerre, perché tante le guerre noi non siamo in grado di farle, e facciamo posti di lavoro. Ve lamentate del fatto che non c'è crescita, che non c'è ripresa, che non ci sono posti di lavoro, e poi vanno a comprare gli F-35. Ma che diavolo servono questi F-35? Vediamo sto nuovo ministro della della guerra, il ministro della difesa che si trasforma in ministro della guerra. Allora, c'è Massimo Gramellini che scrive questa mattina: la doppia morale, si può essere sollevati nell'apprendere che al culmine della crisi ucraina la ministra abbia trovato il tempo per andare a sgranchirsi le gambe sue della scorta in una maratona a Ostia. Non ci si può fare a meno di domandarsi che cosa avremmo detto se un ministro della difesa di Berlusconi, magari Ignazio La Russa, avesse lasciato curvo sui dossier euroasiatici qualche generalissimo secchione e se ne fosse andato allo stadio con il figlio Geronimo e gli amici. E non l'ha scritto Libero, non l'ha scritto Libero, è sulla Stampa Massimo Gramellini. De Manzoni, è stato un buon affare per Renzi prendere la guida del governo, o forse aveva ragione quando diceva chi me lo fa fare? Ma sicuramente non è stato un buon affare dal punto di vista dell'immagine. È vero anche che ci sono molte nomine da fare, che quindi da un certo punto di vista può essere stato un affare. Lo giudicheremo da quel punto di vista tra un po' di tempo. Io sono convinto che non sia stata una buona mossa, ma che per certi versi non potesse fare altrimenti, perché la situazione che c'era determinata lo spingeva lì. Lui stesso in un'intervista ha fatto capire che c'è stato anche qualche retroscena che ancora non conosciamo fino in fondo. E questo sono convinta anch'io. Lì dietro probabilmente qualcos'altro c'è stato che non conosciamo, da quel stai sereno a quella poltrona. Forse lo streaming ancora non ci ha rivelato tutto. Forse non basta neanche quello. Renzi, i nostri ascoltatori suggeriscono la posta elettronica invece del francobollo, così magari risparmiamo. Oh, bravo, la PEC. Mandiamo avanti la digitalizzazione dell'Italia. Io sono nel comitato dell'Agenzia Digitale, ma devo dire che è una cosa complicata. Sembra che il governo non si interessi abbastanza di questo problema, digitalizzando, facendo le PEC tutti quanti. E così possiamo mandare anche le lettere ai sindaci e magari anche agli italiani. Sì, mandiamo a tutti gli italiani. E così, la tua scuola come funziona? Ognuno la sua. Allora, chiudiamo anche questa mattina questo spazio di analisi, chiacchiere, chiamatele come volete. Questa è lo quadro dell'Italia. Torneremo ancora sui giornali, ovviamente con la rassegna stampa, per raccontarvi quelle che sono le notizie di oggi. I temi di discussione sono questi. Grazie a Carlo Renzi, presidente del Codacons. Buona giornata. Grazie anche a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. C'è GR24, noi ci risentiamo dopo con le pagine dei giornali. GR24 mattino. L'Italia si desta. 7:18. Cosa c'è sui giornali di quest'oggi? Dopo gli Oscar per i migliori film, ci vorrebbe un Oscaretto per i migliori commenti italiani agli Oscar. Provinciali, retorici, cialtroni, pizza e mandolineschi, un po' come dopo le partite dei mondiali quando vince l'Italia, il patriottismo ritrovato, l'orgoglio tricolore, il riscatto nazionale, l'ottimismo della volontà, la metafora del paese che rinasce, il sole sui colli fatali di Roma. Questa volta però con l'Oscar alla grande bellezza c'è un di più, l'esultanza di chi si è fermato al titolo senza capire che è paradossale come tutto il film. Ecco, quello di Sorrentino è il miglior film straniero anche e soprattutto in Italia. Scambiare il film per un inno al Rinascimento di Roma, peraltro sfuggito ai più o dell'Italia, significa non averlo visto o peggio non averci capito una mazza, come se la Romania promuovesse Dracula a eroe nazionale e i film su di lui a spot della rinascita transilvana. Così Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Così ho voluto cominciare questa mattina la nostra carrellata dai giornali che troverete in edicola, perché andava forse veramente detto. La grande bellezza, molti l'avranno magari anche vista ieri sera in TV, forse è un'altra cosa rispetto a tante cose che sono state scritte, non tutte ma forse tante, e allora vale la pena di guardarle e analizzarle le cose prima di parlare, e allora anche per questo noi come sempre vi raccontiamo i fatti con GR24 e anche coi giornali oggi in edicola. Allora, la carrellata dei titoli è naturalmente l'accordo, mezzo accordo, chiamiamolo così, sulla legge elettorale a dominare sulle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Il Corriere della Sera: Italicum, Renzi trova l'accordo, nuova legge elettorale solo alla Camera, e Berlusconi accetta. Il Messaggero: riforma solo per la Camera, il nuovo patto per le riforme, scrive La Stampa. E poi eccoli i titoli un po' più cattivelli: la tricamerale, Il Manifesto, le immagini sono di Berlusconi, Renzi e Alfano, Il Giornale: solo un renzino, Italicum, Camera singola, L'Unità: accordo fatto sull'Italicum, vale solo per la Camera, Berlusconi deluso da Renzi, La Repubblica che però titola su altro questa mattina, su Ucraina, la sfida di Putin al mondo, borsa in rally, tassi ai minimi, l'apertura del Sole 24 Ore con l'intesa sulla riforma elettorale e Stefano Folli che scrive il bizzarro compromesso, Libero, Renzi nella palude. Questo sicuramente il tema che domina principalmente le pagine dei quotidiani. Ma c'è un ma, perché su il Corriere della Sera c'è un'intervista di Ferruccio De Bortoli, e di quelle che raramente si vedono. Vi racconto il mio primo anno da Papa, l'intervista a Papa Francesco del direttore del Corriere della Sera. Qualche anticipazione l'avete già sentita poco fa in GR24. Sentiamo allora cosa scrive Ferruccio De Bortoli. Un anno è trascorso da quel semplice buonasera che commosse il mondo, l'arco di 12 mesi così intensi, fatica a contenere la grande messe di novità e i tanti sogni profondi dell'innovazione pastorale di Francesco. E subito parte da un tema, quello delle interviste piuttosto che delle telefonate, della presenza di un papa poco nei palazzi e molto più accessibile, diciamo così, dei suoi predecessori, il direttore del Corriere della Sera, e la domanda è immediata: lei, Santo Padre, ogni tanto telefona chi le chiede aiuto e qualche volta non le credono neppure. Sì, è capitato, dice Papa Francesco, quando uno chiama è perché ha voglia di parlare, una domanda da fare, un consiglio da chiedere. Da prete a Buenos Aires era più semplice, per me resta però un'abitudine, un servizio. Io faccio il prete e questo mi piace, così. L'immagine che molto racconta di Papa Francesco in questa intervista. E poi molti temi scottanti, rapporti con il suo predecessore, chiede De Bortoli, ha mai chiesto qualche consiglio a Benedetto XVI? La coabitazione, insomma, di cui molto si parla. Sì, il Papa Emerito non è una statua in un museo, risponde Papa Francesco, che anche in questa intervista è decisamente molto diretto. È un'istituzione, non eravamo abituati, 60-70 anni fa il vescovo emerito non esisteva, venne dopo il concilio, oggi un'istituzione, la stessa cosa deve accadere per il Papa Emerito, e azzarda Francesco, forse ce ne saranno altri. Il suo modo di governare la Chiesa a noi è sembrato questo, dice ancora De Bortoli, lei ascolta tutti, però decide da solo, un po' come il generale dei gesuiti. Il Papa è un uomo solo? Risponde Papa Francesco, sì e no, capisco quello che vuoi dirmi, il Papa non è solo nel suo lavoro, perché accompagnato e consigliato da tanti, sarebbe un uomo solo se decise desse senza sentire o facendo finta di sentire. Però, aggiunge Papa Francesco, c'è un momento quando si tratta di decidere di mettere una firma nel quale è solo con il suo senso di responsabilità. E poi tanti temi, attenzione ai divorziati e alle unioni civili, ma i casi vanno valutati. E poi nessuno obbligato a usare mezzi straordinari quando si sa che è una fase terminale, io consigliavo le cure palliative, ancora i rapporti con la Cina, insomma una lunga intervista. Questa è la parte, diciamo, un po' più umana che ne emerge di questo Papa Francesco intervistato questa mattina su il Corriere della Sera. Dicevamo, il tema che più fa dibattere, almeno dal punto di vista politico, è sicuramente questa intesa a metà ieri raggiunta tra PD, Renzi, Alfano, Berlusconi, gli attori in campo. Sull'Italicum l'accordo c'è, sulla nuova legge elettorale, ma riguarderà solo la Camera e quindi resta aperto quello che forse è il nodo più complicato. Restiamo sul Corriere della Sera, visto che abbiamo qui la prima pagina. Quel filo ormai troppo sottile, scrive Antonio Polito, si logora il patto sulle riforme. Il filo da acrobata su cui Renzi cammina ha resistito alla prima prova della legge elettorale, ma si è fatto molto più sottile ora che al governo il Premier ha dovuto scegliere. Ed eccolo qui il punto. Tra le due maggioranze ha ovviamente preferito quella di governo. Sospettare, dice ancora Polito, che qualcuno dei giocatori stia barando sotto il tavolo è legittimo. Suona strano che mentre tutti la danno per scontata, ma non sia stata in realtà neanche presentata da Renzi, una bozza di riforma al Senato. Eppure aveva indicato un cronoprogramma che ne prevedeva entro l'estate l'approvazione in prima lettura e proprio al Senato. Ma è quello il vero ostacolo della corsa. E non è un caso se la proposta di legge non c'è ancora. Il fatto è che il progetto iniziale di Renzi non convince e molti, pare di capire, anche nella Consulta hanno seri dubbi a trasformare la Camera Alta in una sorta di CNEL di sindaci piuttosto che in un Bundesrat alla tedesca. È giunto dunque il momento di scegliere. Ieri il Premier ha salvato la velocità della macchina che ha messo in moto, ora dovrà indicare anche il traguardo, così Antonio Polito su il Corriere della Sera. E vi lascio anche alla lettura di Francesco Verderami, pagina 5, sempre del Corriere della Sera, che pone un altro accento e dice che così però il patto del Nazareno è finito, perché ora l'asse obbligato sarà quello tra il Premier e Alfano. Staremo a vedere se sarà così e se e a cosa porterà. Abbiamo letto prima i titoli più o meno cattivelli, la tricamerale del Manifesto, il Renzino del Giornale, il vietato votare di il Fatto Quotidiano. Sulla Repubblica anche qui si parla di strada ormai obbligata, l'analisi di Claudio Tito, la strada obbligata dell'ultimo azzardo, a questo punto i passi indietro non sono più consentiti, la soluzione adottata ieri per la riforma elettorale segna una strada obbligata che per Matteo Renzi prevede due soli esiti, il successo con l'abolizione del Senato o il fallimento, una scommessa in cui si vince o si perde tutto. Sta a vedere chi vince o perde tutto. Nel frattempo, se sulla legge elettorale si rallenta o perlomeno si decide di andare avanti, ma solo a metà, allora che succede? Che decisioni invece ce ne sono? E come? Il Messaggero, taglio centrale, retromarcia sulla Chiesa, non pagano gli edifici di culto. Parliamo della TASI, come per l'IMU, tassati gli immobili a uso commerciale. La Chiesa e gli enti no profit si vedranno applicare sulla TASI la stessa disciplina che vigeva per l'IMU. Vengono esclusi dalla nuova tassa gli immobili delle regioni, dello Stato, dei comuni destinati all'utilizzo istituzionale, ma anche gli edifici di culto. Ed eccola, ci sarà la nuova polemica. Polemiche politiche che però non mancano su vari fronti. Gramellini questa mattina particolarmente pungente, la Barracciu, buongiorno di Massimo Gramellini. La doppia morale a sinistra esiste nelle cose piccole e in quelle grandi, cominciando dalle piccole. La doppia morale, scrive Massimo Gramellini, si può essere sollevati nell'apprendere che al culmine della crisi Ucraina la ministra abbia trovato il tempo per andare a sgranchirsi le gambe sue della sua scorta in una maratona a Ostia. Non ci si può fare a meno di domandare che cosa avremmo detto se un ministro della difesa di Berlusconi, magari proprio Ignazio La Russa, avesse lasciato curvo sui dossier euroasiatici qualche generalissimo secchione se ne fosse andato allo stadio con il figlio Geronimo. Passando a questioni più serie, però forse anche questa proprio così seria, così non seria non è, scrive ancora Massimo Gramellini, l'intero paese fa la ola per il congelamento del sottosegretario Gentile, luogotenente calabrese di Alfano coinvolto in una storiaccia di intimidazione a un giornale, ma terminata la ola qualcuno comincia a chiederci perché Gentile sia fuori dal governo mentre quattro sottosegretari indagati del PD rimangono dentro. Ed eccola la questione. Francesca Barraccio, vincitrice delle primarie sarde, indotta a ritirarsi per via dell'indagine che le contesta una cresta di 33.000 euro sulle note spese. Come mai non andava bene per fare la governatrice a Cagliari, ma va benissimo per fare il sottosegretario a Roma. Così Massimo Gramellini. E c'è da giurarci davvero che questa storia ancora non sia finita. Andiamo nelle pagine interne, questa volta della Repubblica. Omertà, affari e super parcelle, chiusa l'inchiesta sulla ASL, in mano ai fratelli Gentile, i PM di Cosenza scrivono diffuse e radicate illegalità. Siamo a pagina 7 della Repubblica di questa mattina. Chiosano i magistrati, l'inchiesta è quella su Andrea Gentile, figlio di Antonio, ricorderete, indagato per le consulenze nel settore sanitario della Calabria. Tutto ciò costituisce allarmante indice di quanta soggezione incutano e verosimilmente tutti coloro che in tutti i referenti politici di questa vicenda. Ecco il profilo dell'iceberg che spunta dagli atti in mano agli inquirenti e rischia di allargarsi lo scandalo. Soggezione che arriva dai referenti politici, diffuse e radicate illegalità. E di sicuro è una storia che ben difficilmente potrebbe chiudersi. Ma 7:30 minuti, solo un ultimo sguardo alle notizie politiche prima della nostra pausa, perché mentre la decisione veniva presa per quanto riguarda le tasse, mentre si discuteva dell'Italico, mentre in furia il caso Gentile, alla Camera non c'è solo la riforma elettorale, sono mesi che si parla delle carceri. Ebbene, ricordate il monito di Napolitano per l'amnistia, leggiamo ancora dal Fatto Quotidiano, ma lo trovate anche su altri giornali, state tranquilli. Ebbene, ieri dopo 5 mesi dell'amnistia e delle carceri ne hanno parlato e discusso, ma pochi intimi alla Camera, senza decidere in nulla. In aula c'era il 5% dei deputati a parlare di carceri. 24 mattino. Avevo promesso che per un po' avremmo lasciato da parte la politica sui quotidiani di oggi, e allora l'altro tema di cui molto si discute, anche perché è tutt'altro che concluso, è quello della crisi in Ucraina, la sfida di Putin al mondo, come titola oggi la Repubblica, che decide con la notizia di aprirci. Il leader russo a Kiev, c'è stato un golpe, ha detto l'ex presidente Yanukovych, non ha futuro. In piazza a Kiev, mentre dalla vicina dacia parlava Putin, dalla sua dacia è arrivato il segretario di Stato americano Kerry, che ha promesso vi aiuteremo, l'Occidente prepara le sanzioni, quali ancora non è ben chiaro. Insomma, clima da guerra fredda, di sicuro il teatro di queste scaramucce non è dei migliori, scrive. Allora, su La Repubblica questa mattina Bernardo Valli, i muscoli del Cremlino. Andiamo a vedere cosa scrive. Da un lato la Russia ha rivendicato il diritto di compiere un abuso nella legalità, sicuramente. Dall'altra l'Occidente ha provato il precipitoso sollievo di chi vive la crisi giorno per giorno senza un preciso piano per affrontarla. Domani si vedrà, questa è la differenza tra i due campi tra imbarazzata tensione. Uno si richiama al principio di interferenza, anzi lo proclama per applicarlo ai paesi che si ribellano alla condizione di satelliti, come appunto l'Ucraina. Il secondo è diviso da interessi divergenti. Parliamo dell'Occidente, impacciato nei suoi movimenti da un'America stanca, ormai incapace di svolgere il ruolo di superpotenza, e da un'Europa semi unita, non ancora rimessa dallo scampato naufragio finanziario. C'è poco da fare la morale, scrive Bernardo Valli, né l'America né gli europei complici hanno l'anima immacolata per quanto riguarda le aggressioni internazionali. E allora sulla Stampa a scriverne è Quirico, è Domenico Quirico, che è a Yalta e in Crimea, fra gli amici dello zar che aspettano i blindati russi, come scrive oggi pagina 12 della Stampa. Quelli che deridevano la Russia vinta esangue di Gorbaciov e di Yeltsin adesso onorano quella petrolifera e arrogante di Putin e finiranno con l'amarla, dice Domenico Quirico. Tutto sembra intatto, eppure è solo finzione. Ieri a Belbek, l'aeroporto militare di Sebastopoli, un gruppo di soldati ucraini disarmati hanno chiesto umilmente di poter rientrare nella loro base. Li hanno cacciati come mendicanti. A Eupatoria un'altra base si è arresa. Putin ha imparato la lezione staliniana. Nutrirsi delle nostre debolezze, se metterci di fronte al fatto compiuto. I dittatori fanno della forza l'unico strumento della loro grandezza. Stalin sfogliò un lembo dopo l'altro l'Europa dell'Est. Ora si è cominciato con l'Ossetia e l'Abkhazia, poi la Crimea e l'Ucraina dell'Est. Senza l'Ucraina lo spazio euroasiatico inventato da Putin, Russia, Bielorussia, Kazakistan non ha più alcun senso. Per il momento l'occupazione della Crimea non è necessaria, sì, scrive Domenico Quirico, ma per il momento. Ieri i russi hanno occupato un'altra base. I baltici, i polacchi hanno ricominciato a tremare. Stalin ha insegnato che uno dei vantaggi della potenza è quello di essere giusti o ingiusti a proprio piacimento. Così gli scrive Domenico Quirico. C'è da giurarci che la partita davvero non è finita e anche qui bisognerà vedere quale partita giocherà l'Occidente. Così su La Stampa. E allora, in tutto questo c'entrano anche i mercati, perché hanno avuto paura della crisi ucraina. Ieri le cose sono andate un po' meglio, allora borse in rally, tasse ai minimi, scrive il Sole 24 Ore. I mercati rimbalzano dopo i primi segnali di distensione tra Russia e Ucraina. Putin ritira le truppe, da Obama arriva un miliardo a Kiev. Se Mosca sfida, un'Europa divisa. E ci risiamo, Vittorio Emanuele Parsi. Su Il Sole 24 Ore, il punto è sempre lì: l'Europa che si presenta divisa, l'America che il suo ruolo di potenza internazionale ormai fatica a ricoprirlo. L'Europa che però tornerà probabilmente oggi di nuovo a bacchettarci. Taglio centrale del Sole 24 Ore, nuovo richiamo all'Italia. Oggi Bruxelles apre un fascicolo, troppi squilibri. E ancora una volta sapete su cosa? Costo del lavoro, giustizia, banche e debito. Eccessivo lo squilibrio economico in Italia e quindi l'Italia, secondo Bruxelles, ancora in ritardo nella capacità di innovazione, potrebbe tornare ancora ad essere sorvegliata speciale. Fate troppo poco, scrive questa mattina anche La Stampa. L'Unione Europea è pronta all'infrazione per Italia, Croazia, Slovenia. Condannati a campiare, scrive Francesco Manacorda su La Stampa. Che cosa succederà se oggi, come pare probabile, arriverà l'annuncio che Bruxelles, e andiamo nelle pagine interne, è pronta a mettere a osservazione l'Italia per le riforme che latitano? L'Italia era in fondo alla lista delle riforme attuate assieme a due partner come la Slovenia e la Croazia fra i bocciati. E oggi, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto, potrebbe vedere sancita la sua grave insufficienza. Ancora una volta sorvegliata speciale e ancora una volta sottoposta a una procedura di infrazione simile a quella per deficit eccessivo. Non è questa volta per deficit eccessivo, ma per mancate riforme, ma sempre lì siamo, dalle quali per inciso... Riforma per deficit eccessivo, scrive Francesco Manacorda e ci ricorda questa mattina sulla Stampa, è uscita a maggio scorso. Condannati alle riforme, ma quali riforme? L'ortodossia comunitaria ha visto l'austerità di bilancio come condizione imprescindibile. Attenzione anche che non sia così per le riforme. Però non abbiamo molto da sorridere. Perché condannati a fare le riforme, ma con Italia che arranca ancora una volta, un'altra classifica, in coda alla classifica, mentre il vecchio continente sta lentamente colmando il divario con Giappone e Stati Uniti, si salvano soltanto Piemonte, Emilia e Friuli. L'Italia che insegue l'Europa, ennesima classifica, la leggiamo anche qui dalla Stampa, su quelli che sono le regioni che in Europa... innovano di più, non ci siamo, non cercateci, non ci siamo, o perlomeno ci siamo come Italia, ma solo con tre regioni, Emilia, Piemonte e Friuli, gli altri non ci sono. Mauro Meazza, collega del Sole 24 Ore, buongiorno Mauro. Buongiorno Anna, buongiorno. Allora, non ne usciamo con un bellissimo quadro, che dire? Che dire, però guardiamo insomma dentro il Sole 24 Ore, queste pagine di Nova 24 che oggi, come sai, Nova 24 i lettori sono abituati a vederlo il sabato, anche il mercoledì pagine dedicate ai progetti, e tra l'altro ci sono tutta una serie di materiali che molto promettenti per gli sviluppi specialmente nel campo dell'energia. Oggi nel Sole 24 Ore e poi come comportarsi di fronte alle borse, queste borse che vanno in su, vanno in giù, c'è la nostra abituale bussola con specialmente focalizzata sull'andamento dei titoli di Stato, quindi io non so se anche tu come Alessandro hai due urini o qualche urino in più come io. Forse un euro e 50, dai. €1,50, va bene, prova a guardare, dai un'occhiata alla bussola del risparmiatore per capire se i titoli di Stato in questo momento sono convenienti o meno. E poi ci sono le notizie di Radio Fisco, sai che con Alessandro sempre abbiamo questo momento esoterico. Allora mi raccomando, per Radio Fisco, ma direi anche la sigletta, Mauro, 7:42, Radio Fisco. Eccoci. Radio Fisco. Allora, per Radio Fisco segnalo che oggi, insieme al Sole 24 Ore, 16 pagine dedicate ai reati tributari. I reati tributari sono una cosa da considerare con molta attenzione, l'aspetto penale in qualche modo. No, è una cosa seria, ovviamente. No, è una cosa serissima. È una cosa serissima. Tra l'altro la delega fiscale promette un riordino nella materia che è diventata complicata, che si lega direttamente anche al provvedimento di rientro dei capitali che, come sai, in queste settimane viene discusso dalle Camere. Quindi diciamo che con €1,50 magari questo problema è meno avvertibile, però insomma, sicuramente per tutti i professionisti coloro che si devono occupare. E in questo caso fisco, i due urini magari sono anche spesi bene. Sì, in questo caso proprio sì. E poi abbiamo la UE addosso, doppia vigilanza, perché squilibri del paese da una parte e Pompei dall'altra, Pompei soprattutto. Allora dai che mi anticipi, perché noi di Pompei parleremo alle 8:15, tra l'altro avremo rappresentanti sia dall'Europa sia dalla soprintendenza di Pompei per capire cosa succede a Pompei. Ecco, allora vi segnalo nella copertina delle pagine di Imprese e Territori la vigilanza, l'occhiuta vigilanza con cui la UE ci sta addosso. Il nostro governo, come sapete, si è un po' schermito, ha detto no, ma stiamo facendo tutto il possibile, però in qualche modo sembra di capire che l'Unione non si fidi moltissimo, e non solo per appunto l'aspetto economico, ma anche nella gestione del patrimonio artistico. Oggi non è davvero una buona giornata. Vabbè, dai, la diamo una buona notizia. Apple affida a un italiano un tesoro da 160 miliardi. Non è vero che da noi fanno solo shopping di aziende, ma pare anche di teste. Anche shopping di cervelli, beh, però sai, l'apprezzamento delle capacità individuali nostre effettivamente non è mai calato, no? E quello su cui non siamo tanto bravi forse è la gestione collettiva delle cose, forse su quello lì siamo un po' più debolucci, a fare squadra. Luca Maestri va alla Apple, simbolo dell'high tech. Un tesoro da 160 miliardi, scrivete giustamente questa mattina in prima pagina, un po' di orgoglio almeno per quello, visto che mi stanno insultando gli ascoltatori perché all'inizio della rassegna stampa ho un po' demolito i vari il grande enfasi per l'Oscar da parte di chi forse la grande bellezza non l'ha visto. Di questo andiamone fieri. Andiamo sicuramente fieri, ma come ti dicevo, noi siamo esportatori da sempre di capacità individuali, non solo da questo periodo. In questo momento insomma è bello che qualcuno dei nostri connazionali colga delle opportunità eccezionali anche altrove, no? Anche da parte di aziende più grandi. Ma dobbiamo salutarci col grido che ormai lo aspettavo. Ah, ma posso dirlo io anche stavolta? Vai. Molto bene. Traffico. E allora 7:46 per un manager che va a guidare la Apple, un altro che fa una fine ben diversa. Pagina 25 del Corriere della Sera, la penitenza di Jérôme a piedi da Roma a Parigi dopo il crack di in borsa. Allora, ve lo, magari qualcuno di voi se lo ricorderà, l'ex trader che deve 5 miliardi a società General lungo la via Franchigena, adesso è a piedi. Jérôme Kerviel, 37 anni, simbolo per l'eccellenza della finanza senza scrupoli. Non resta che pregare e camminare, reggiamo dal Corriere della Sera, a piedi da Roma a Parigi lungo un percorso di circa 1400 chilometri che ha intrapreso da solo lunedì 24 febbraio dopo essere stato folgorato da Papa Francesco. Tra due settimane la Corte di Cassazione francese deciderà se confermare il verdetto della Corte appello che nel 2013 lo aveva condannato a 5 anni di carcere e a pagare alla banca 4,9 miliardi di euro di danni e interessi. E intanto lui cammina per le vie della Francia. I ricavi del libro di memorie scritte nel 2010 sono serviti a pagare gli avvocati dei primi due gradi di giudizio. Cammino con 200 euro in tasca, ho un budget di 30-40 euro al giorno, bastano per dormire, fare colazione e mangiare, un piatto di pasta alla sera, quando arrivo esausto dopo aver camminato 7-8 ore aspettando la sentenza. Intanto fa penitenza a piedi Jérôme Kerviel, 37 anni, dalla vetta della finanza ai piedi per fare penitenza, così su il Corriere della Sera. Allora, un'altra storia che forse vale la pena raccontare quest'oggi, in questo caso, eccola qui, andiamo sulle pagine di Repubblica. Allora, sentite un po' che è successo. Sparisca per favore. Allora, bufera sui giudizi alle abilitazioni truffa. Quel carrozzone dell'abilitazione nazionale scientifica, la grande prova, 59.000 candidati che sta scegliendo chi è meritevole di prendere una cattedra universitaria domani, snocciola un nuovo scandalo. I giudizi alla Bastianich, così sono stati titolati nel mondo dell'architettura, alludendo alla perfidia gratuita di uno dei conduttori della trasmissione di MasterChef. Allora, lo sapete cosa c'è scritto in questi giudizi? Non è stata una bella esperienza, indimenticabili i testi di Molinari e Garofalo. Sparisca per favore. Ho capito che è una punta di diamante del suo dipartimento e che c'è aria di abilitazione, provo perplessità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, esclusi più o meno eccellenti che si lamentano dei verbali dei cinque commissari di progettazione che, oltre a zoppicare in italiano, così scrive la Repubblica, regalano considerazioni maligne, incisi grevi, battute sarcastiche. Non si era mai visto un bando universitario così. L'Associazione Italiana di Architettura e Critica parla di una commissione sessista e maschilista che non rispetta la dignità delle persone giudicate e squalifica le università italiane. Comunque la pensiate, di sicuro è l'ennesimo mega concorso che qualche scandalo lo rivela, seppur questa volta lessicale. Per una storia come questa, l'altra storia invece, la vita muta e bisognosa di altri, quella di molti altri ragazzi con i suoi problemi, un 33enne del Trevigiano che è riuscito a laurearsi. La battaglia vinta di Pierre, restiamo sempre sulla Repubblica, primo laureato autistico che dice esco dalla prigione di cristallo. A scuola capivo tutto, ma come facevo a dirlo ai professori visto che non parlavo? E allora in molti questo l'hanno preso per modello, la storia comunque è questa. A Padova la festa per il primo laureato autistico. Ancora sulla Stampa, parlavamo prima dei due urini con il nostro Mauro Meazza, forse qui ce ne vorranno un po' di più, ma Singapore, la città più cara al mondo, ma vacilla il mito, così questa mattina sulla Stampa. La classe media fatica, gli immigrati fanno la fame, razzismo e sfruttamento mettono in crisi il modello Singapore. Dietro l'opulenza, la folla degli scavi del lusso. È la città più cara del mondo, ma razzismo e sfruttamento ora mettono in crisi il modello. Ecco così il settimo PIL pro capite, un abitante su 30 è milionario, ma la classe media inizia a fare fatica e gli immigrati immigrati fanno la fame. Il racconto di una Singapore che sembrava modello da imitare e che forse così tanto non lo è questa mattina sulla Stampa. Ed eccola l'altra notizia per la rubrica davvero potremmo dire non è mai troppo tardi. Il refuso del New York Times è corretto 161 anni dopo sul nome del protagonista di 12 anni da schiavo. Il New York Times ha corretto un articolo che aveva sbagliato 161 anni fa. Il 20 gennaio del 1853, così. Dopo tanti anni arriva la rettifica del New York Times. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, 7:52 minuti, un paio di minuti li abbiamo. Vi avevo promesso che non saremmo più tornati sulla politica, ma non mantengo invece la mia promessa, ve lo dico subito, perché invece c'è un'altra questione che ancora resta aperta. Perché oggi verrà presentata una nuova lista alle europee guidata dal Greco che vuole rivoluzionare l'Europa. Allora, pagina interna della Stampa per la serie, in questo caso della rubrica comunque alla fine tutti tornano, il ritorno di Casarini pronto per le europee, la lista a Tsipras, il voto finale sulla candidatura sarà del leader greco, ma ecco che torna l'ennesima polemica, da Inno Global alla partita IVA. Una percezione del progetto europeo, dicono i suoi sostenitori. Oggi cominciano altre liste, altri candidati, arriveranno anche i candidati ovviamente dei maggiori schieramenti. Intanto si preparano le nuove liste comunque di vocazione europea tra vari paesi. Ecco che torna anche Cesarini. Allora, queste le principali notizie sui quotidiani italiani, la carrellata di questa mattina, il tema di cui parleremo dopo il giornale radio già ve l'abbiamo anticipato, però ve lo segnalo già perché anche di questo molto sarà da discutere, anche questo un intreccio tra Italia ed Europa più o meno bacchettati da Bruxelles, fondi per Pompei a rischio, così titola questa mattina tra gli altri Sole 24 Ore, ma lo trovate un po' su tutti i quotidiani. Parliamo dei famosi 105 miliardi che dovevano risollevare Pompei, che non sono stati spesi. Questa mattina arriva il nuovo soprintendente, ce la faremo, abbiamo i soldi in cassa a spenderli, vedremo. Noi cercheremo di parlarne anche coi protagonisti di questa storia subito dopo il giornale radio. Qualcuno mi chiedesse quando finirà il programma di salvataggio di Pompei, dico mai, però una cosa posso dirvi, che parte da domani. Era l'aprile del 2011, ministro dei beni culturali era Giancarlo Galan, forse ci ha azzeccato un piano partito domani, aprile 2011, finito mai. Siamo nel 2014 e questa mattina ricominciamo ancora da qui, da Pompei e da qual è la via per salvarlo. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati, così parlava Giancarlo Galan. Non necessariamente il privato deve rincorrere un motivo di profitto, perché lo fa per lasciare un buon ricordo di sé, perché vuole salvare la sua immagine, per mille motivi. Cercheremo di trovare i più nobili, come quelli che trovava la mia famiglia, che ha sponsorizzato la chiesa di Nanto in tutti i modi, più di quello che ha sponsorizzato i nipoti. Privati ne sono stati trovati pochi, ma sono stati trovati, quelli sì, i fondi europei per la Pompei a rischio. I famosi 105 milioni di euro stanziati dalla Commissione europea, 60 dai cosiddetti fondi di coesione territoriale, più altri in più per la grande Pompei, per rimetterla a nuovo. Promessa e promessa del 2011, Pompei la rimetteremo in sesto. Ieri la nuova promessa del nuovo ministro per i beni beni culturali. Franceschini, che è all'Europa, ha risposto a Pompei: ci pensiamo noi. Ma di certo il commissario europeo Hahn ha parlato di una sconfitta per ogni crollo, ha promesso ancora risorse. Domenica l'ultimo crollo, ma veramente solo l'ultimo di una lunga serie. Che succede a Pompei e soprattutto a questo punto che ne pensano di noi a Bruxelles? Di questo vogliamo parlare questa mattina. Saluto i nostri ospiti. Nicola De Michelis, vice capogabinetto del commissario Hahn. Buongiorno. Buongiorno. E Gret Stefani, che è direttore degli scavi di Pompei. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, cominciamo da Bruxelles. De Michelis, i soldi ci sono. È vero che non li stiamo spendendo? Risulta così anche a voi a Bruxelles? Ma guardi, non è proprio vero, nel senso che i lavori di rafforzamento strutturale sono iniziati alla Casa delle Pareti Rosse, alla Casa del Critto Portico. I contratti sono stati lanciati per i lavori di restauro nelle sezioni 6, 7, 8, la Casa della Fontana Piccola, la Casa della Venere, quindi i lavori sono in corso. Dopodiché noi vorremmo evidentemente che le cose andassero più rapidamente, ma c'è un elemento essenziale nella costruzione di questo progetto su cui il ministro all'epoca e il commissario si erano messi d'accordo, ovvero sia un presidio fortissimo per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Questo vuol dire che i progetti, i bandi sono controllati, ricontrollati, e questo prende tempo e spiega in parte il motivo per cui si sono accumulati dei ritardi, però vuol dire anche che le risorse siamo sicuri che sono spese in modo corretto, in modo trasparente. Allora non siete poi così arrabbiati di questi ritardi, mi spiego meglio. Meglio forse qualche piccolo ritardo, purché piccolo sia, ma soldi spesi bene? Esattamente un po' questo è il principio di questo progetto, le risorse ci sono, bisognerà spenderle entro la fine del 2015, questa è una delle regole del funzionamento dei fondi strutturali, ripeto, le cose potrebbero andare più rapidamente, ci pare che le cose stiano accelerando, i lavori sono in corso, nuovi cantieri si stanno aprendo. Quindi siamo abbastanza fiduciosi che questo progetto funzionerà e tra l'altro potrebbe mettere le basi per un secondo grande progetto Pompei. Stiamo adesso negoziando con l'Italia altri il nuovo soldi. Periodo di programmazione, esatto, il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e aspettiamo che l'Italia ci faccia una proposta per una continuazione di questo progetto per mettere altre risorse a disposizione. Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza anche sulle date, perché quando si parla di fondi europei a volte non si capisce molto bene quali sono i tempi. Questi vanno spesi entro il 2015 perché erano quelli della programmazione fino al 2013, i prossimi i tempi sono più lunghi, quindi non è che c'è stato un problema a dire che dobbiamo spenderli entro il 2015, ma sono i fondi vecchi. Gran parte di questi soldi andavano destinati in qualche modo anche burocraticamente entro dicembre. Quello vi risulta? È stato fatto? Siamo in regola? Non rischiamo di perderne? L'Italia non ha perso una lira su un euro a fine 2013. Adesso ci saranno le scadenze della dicembre 2015 in cui tutti i 105 milioni dovranno essere rendicontati. Se non lo saranno ci saranno delle perdite, ma di nuovo a nostro avviso, oggi come oggi, questo rischio non si presenta. Allora, il nostro ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: insomma, Pompei non è stata meglio, non è mai stata meglio e più accudita. No, non è questo che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che i soldi ci sono e che stanno facendo il percorso corretto, almeno fino ad ora. È soddisfatta e d'accordo con le parole del vice capogabinetto del commissario Hahn, Stefani, direttore degli scavi di Pompei? Lei poi questi soldi li mette in pratica, li usa? Sì, sì, e le affermazioni del dottor De Michelis sono correttissime e abbiamo anche noi la stessa fiducia che ha il dottor De Michelis nel fatto che questi soldi verranno spesi e verranno spesi bene. Stiamo procedendo proprio per utilizzarli nel migliore dei modi possibili. è che purtroppo naturalmente ci sono i tempi tecnici sia per l'affidamento dei lavori sia per l'esecuzione dei lavori. Non stiamo costruendo un edificio moderno, stiamo restaurando degli edifici antichi e quindi abbiamo bisogno naturalmente dei tempi tecnici per eseguire i lavori, ma la conclusione per esempio del primo cantiere che è avvenuta nei giorni scorsi è una testimonianza che i tempi sono stati perfettamente rispettati. De Michelis, allora il problema dov'è se va tutto così bene? In un altro paese europeo avrebbe funzionato così o è così perché siamo a Pompei? Ma guardi, credo che non si possa neanche pensare che un progetto di 100 milioni costruito nel 2011, che è partito nel 2012, che sta iniziando adesso a entrare a regime, possa risolvere tutti i problemi di Pompei e decenni di negligenza. Ci sono delle caratteristiche italiane, nel senso che, ma questo non è il progetto Pompei, questo sono i tempi lunghi sui bandi, i tempi lunghi sulla costruzione e l'istruzione dei progetti, a cui si aggiunge, come dicevo all'inizio, in particolare su questo progetto, la necessità di un presidio forte sulle questioni di sicurezza e di criminalità. Quindi a nostro parere le cose stanno andando abbastanza bene, vedremo e faremo un consuntivo alla fine di quest'anno su cui appunto verificheremo se c'è il rischio di perdere delle risorse e se tutti quei cantieri che si stanno aprendo saranno operativi. Quindi oggi, ripeto, la nostra analisi è complessivamente abbastanza positiva. C'è un altro paese europeo con un progetto con così tanti fondi? Perché comunque sono veramente tanti. No. E la seconda domanda, l'Europa è ancora disposta a spendere ancora per Pompei senza vederli i risultati? L'Europa è pronta a mettere delle risorse su Pompei perché sulla base dei risultati di questo progetto, nel senso che noi stiamo guardando attentamente, il mio commissario si è speso enormemente su questo progetto per l'importanza del sito e quindi faremo un'analisi, faremo una valutazione, è una valutazione in corso continuamente di come questo progetto funziona e se i meccanismi che sono stati messi in piedi si rivelano positivi, continueremo, altrimenti tireremo delle conseguenze, non rimettiamo risorse in cantieri. L'ultimo appello qual è? La fine di quest'anno? È la fine dell'anno prossimo. La fine dell'anno prossimo, quindi di tempo ne abbiamo ancora, possiamo forse farcela. Nicola De Michelis, vice capo gabinetto del commissario Hahn, so che ci deve salutare da Bruxelles, può restare con noi o la salutiamo qui? Purtroppo devo lasciare. Riunioni a Bruxelles, questo così ci vedono da Bruxelles, grazie intanto per essere stato con noi questa mattina, allora buona giornata, buon lavoro, il quadro però sicuramente ce l'ha dato di come questo progetto, e ce l'ha ribadito, nessun altro in Europa ha tutti questi fondi, grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. 800 24 00 24, vi ricordo che questa mattina intanto il nostro numero verde se volete intervenire. Mi è sembrata ottimista Stefani, ricordiamolo, lei poi è il direttore degli scavi di Pompei, c'era a sentire Bondi, cominciamo domani, non sappiamo quando finiamo? Lei c'era? No. Il giorno che il ministro Bondi era presente a Pompei io non ero ancora direttore degli scavi di Pompei, io sono diventato direttore degli scavi di Pompei a settembre del 2012. Quindi coi soldi lì da spendere. Questa mattina tra l'altro a Pompei arriverà il nuovo soprintendente Osanna, lo vedrete questa mattina, giusto? Sì. sì, è previsto che venga stamattina. La vedo un po' scettica, no? No, perché? Ci sperate in queste nuove nomine, in questi nuovi arrivi? No, non sono per niente scettica. È normale però che appunto quando ci sono degli avvicendamenti ci sono sempre dei periodi di rodaggio, di nuova conoscenza, di esposizione dei vari problemi che noi abbiamo, ma sicuramente il nuovo sovrintendente li risolverà in tempi. Questi avvicendamenti, perché non è solo soprintendente, di ministri ne abbiamo visti passare parecchi dopo Galan, che quell'accordo l'ha siglato. È uno dei mali italiani che colpisce Pompei, secondo lei? No. No. È però una realtà e quindi dobbiamo tener conto anche di questa realtà, che ci possono essere degli avvicendamenti e quindi delle modifiche nell'organizzazione amministrativa. Abbiamo una piccola pausa, le chiedo di stare con noi perché continueremo a parlarne e ripartiremo proprio da qui, dagli avvicendamenti, dai nuovi arrivi a Pompei. 24 mattino. Io penso che il ministro debba prendere atto che la maggioranza di quest'Aula ha chiesto un suo gesto di responsabilità attraverso le dimissioni e quindi rassegni le dimissioni. Se questo non avverrà, e sarebbe veramente strano e contro le regole del nostro sistema che non avvenisse, che un ministro non registra la volontà maggioritaria del Parlamento, noi dovremo prendere le iniziative conseguenti per portare in quest'Aula la sfiducia o le dimissioni del ministro. Ve lo ricordate? Era Dario Franceschini, oggi ministro dei beni culturali, ma era il 2010, allora su quella stessa sedia sedeva Sandro Bondi e allora per un crollo a Pompei Dario Franceschini ne chiedeva le dimissioni. Chissà se oggi, sedendosi su quella stessa sedia, se ne sarà ricordato il ministro Franceschini. Ripartiamo da Pompei. Cosa fare? Li stiamo davvero spendendo i soldi? Eccola anche il nostro ascoltatore, 349-238-6666. Forse ha fatto la nostra stessa considerazione. Prima crollava tutto per colpa di Bondi, ora di chi? Ora di chi? Sicuramente delle piogge, sicuramente la manutenzione ordinaria non è stata fatta, sicuramente dei soldi che vanno spesi, ma ci vuole tempo. Quanto basterà per salvare Pompei? Saluto, ci ha raggiunto Gianmarco Centinaio, senatore della Lega Nord e membro della Commissione Beni Culturali. Buongiorno. Buongiorno a voi. E Antonio Irlando, presidente dell'Osservatorio Patrimonio Culturale, che Pompei lo tiene sott'occhio da anni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Centinaio, questa volta perché dovrebbe essere diverso? Perché Franceschini dice a Pompei ci pensiamo noi, ce la faremo, ed è diverso da quel Galan che abbiamo sentito prima e che diceva non so quando finiremo ma domani cominciamo? Ma perché non è diverso rispetto al passato? Logicamente quando si tratta di poi andare a occuparsi direttamente della problematica, e mi riferisco all'attuale ministro Franceschini, poi è logico che è diverso rispetto a quando si era all'opposizione, di conseguenza si poteva dire di tutto e contrario di tutto. Io logicamente come capogruppo Lega in Commissione Cultura non faccio il Franceschini, quindi non andrò a chiedere le dimissioni del ministro, anzi chiedo al ministro un maggiore coinvolgimento. Perché? Semplicemente perché rispetto al passato l'Europa ha messo una cifra considerevole, ha messo 105 milioni di euro, ci ha detto molto chiaramente che questi soldi devono essere spesi e spesi bene nel minor tempo possibile. Il vice capo di gabinetto del commissario Hahn, non so se l'ha sentito prima, era con noi, ci ha detto che siamo in regola però con almeno le scadenze burocratiche. Almeno con le scadenze burocratiche sì, però allora a questo punto si mettano d'accordo, nel senso che noi circa sei mesi fa noi come Commissione Istruzione e Cultura del Senato abbiamo fatto un sopralluogo a Pompei con l'allora ministro Brai, il quale aveva iniziato un percorso che ci aveva visti su alcune cose anche magari in disaccordo, però un percorso interessante, e allora Pompei dove si parlava appunto di questi fondi del grande progetto Pompei, c'erano anche i responsabili dell'UNESCO, allora a Pompei chi erano i nostri interlocutori ci avevano detto che sì, effettivamente i lavori erano partiti, che sicuramente qualcosa si stava facendo, che però c'erano già dei ritardi. E allora quindi a questo punto si mettano d'accordo, perché io non penso che in 6 mesi abbiano la bacchetta magica e abbiano risolto tutto. Dico anche di più, perché dai dati che abbiamo in mano in questo momento, di quei 105 milioni di euro che ci sono a disposizione, 104 adesso esattamente la cifra, diciamo flutto di 1 milione di euro, di quei fondi, dai dati che abbiamo in questo momento in mano, ne sono stati spesi circa meno di 1 milione di euro. Allora, devono essere spesi entro fine 2015. Il portafoglio, l'abbiamo ricordato, il portafoglio ce l'ha tra gli altri, almeno per la parte operativa, Greta Stefani, che è direttore degli scavi di Pompei. È vero? È questa la cifra che avete speso? In questo momento adesso non le so dire quanto abbiamo speso, ma non è importante quanto abbiamo speso, ma quanto stiamo impegnando, perché chiaramente stanziando per altri progetti. I lavori vengono pagati a stati di avanzamento quando vengono realizzati, quindi appena viene realizzato il lavoro si può dire che la cifra è stata spesa, ma questo non vuol dire che i soldi non siano stati già impegnati. È quello che ci diceva prima De Michelis, cioè alcuni progetti che sono già stati banditi, quindi è una questione di tempo. Certo. C'è un ascoltatore che ci scrive: sono quasi sicuro che mio figlio non vedrà Pompei. Ce la facciamo? Il figlio dell'ascoltatore che ha telefonato può vedere Pompei tutti i giorni, perché bisogna tenere presente che noi facciamo i lavori anche con gli scavi aperti al pubblico, proprio perché non vogliamo privare il pubblico della possibilità di visitare gli scavi. Quindi il figlio del signore può venire a venga a Pompei. Certo. Abbiamo un ascoltatore, Luigi da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Lei c'è stato a Pompei? Io sono stato a Pompei e ascoltando questo dibattito mi colpisce che si parli solo di spese, di investimenti, e non si parla mai di quelli che sono gli incassi di una struttura di questo tipo. Ho letto i dati ufficiali del Ministero dei Beni Culturali che i visitatori paganti andrebbero, non so, da 40 a 60 mila, un numero ridicolo. Allora io credo che nella gestione ordinaria, come si dice, di una struttura così potente, sarebbe molto importante capire anche quanto si incamera in termini di denaro che si riceve e come viene gestito, quanto costa gestirlo e quanto denaro. Allora, non solo i soldi dell'Europa, quant'altro, ma quanto si mantiene Pompei da sole. Stefano da Milano, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno. Io non ho sentito parlare di una cosa importante, cioè il fatto che il clima, il regime pluviometrico sta cambiando, perché questo è un fatto, mette a dura prova tutti i sistemi di drenaggio delle autostrade, dei centri abitati e quant'altro. Chiaramente in una situazione di edilizia delicata come quella archeologica tutti i problemi sono aggravati. E quindi bisogna anche tenere presente che non solo servono delle competenze tecniche che a volte si fanno fatica a trovare, ma bisogna anche parliamo di archeologi, non proprio di scalpellini che vanno lì a costruire la tettoia o a chiudere, esatto, a chiudere il muretto. Io ho avuto esperienze di lavoro molto positive con diverse sovrintendenze. A volte proprio nel personale strutturato servirebbero forse più anche ingegneri o strutturisti o... Allora, non solo cambia il tempo, non cambia il tempo. Antonio Irlando, presidente Osservatorio Patrimonio Culturale, che da anni i conti li tiene da esterno alla soprintendenza su Pompei. Le chiedo innanzitutto, sta piovendo questa mattina? No, questa mattina ancora no. Pare che è prevista una perturbazione, ma ancora no. Cioè, anzi, c'è un sole che sta accarezzando le rovine di Pompei, ecco, per dirla anche con un'immagine poetica per i tanti potenziali visitatori. Il problema è l'acqua o il problema è quello che si fa o non si fa? È proprio quest'ultima espressione, è quello che non si fa da moltissimo tempo. La pioggia è solo l'ultima vittima delle cause che agisce su un corpo fragile, su un corpo abbandonato da moltissimo tempo, su un corpo di cui non ci si prende cura da molti, molti anni. Allora, Stefani, il problema è ricostruire i muretti caduti o, come spesso si dice, mettere in sicurezza dalla pioggia, perché uno dei progetti di Grande Pompei è proprio lo scolo dell'acqua. Sì, il primo progetto della lista del Grande Progetto Pompei è non sono i muretti, le tettoie. No, è proprio la sistemazione della, con la mitigazione del rischio idrogeologico, questo è il titolo proprio del progetto, in un'area particolarmente a rischio che è l'area centrale degli scavi, dove esiste una ampia fetta della città non ancora scavata, quindi un terrapieno di grandi dimensioni che preme sulle murature antiche. Quindi in quest'area la pioggia, che come diceva molto intelligentemente quell'ascoltatore che è intervenuto prima, è aumentata molto in questi ultimi anni e soprattutto ha si è infiltrata e qui stiamo verificando anche dei temporali molto intensi. Quindi l'acqua. Le famose bombe d'acqua che i problemi li creano a Pompei come in molte altre zone. È anche un problema climatico, ma questo sfata anche forse anche un altro mito di chi dice rimettiamoci la terra sopra e risolviamo il problema di Pompei. Che cosa? Dicevo, questo Smith in qualche modo smonta anche uno dei tanti miti così popolari che dicono mettiamoci la terra sopra e lo salviamo Pompei. No, ormai l'abbiamo scavata, al di là di quanto la cosa faccia sorridere, ma anche operativamente non è la soluzione, anzi. No, ma appunto con questo progetto noi allontaneremo in maniera regolamentata l'acqua dalla zona centrale. Della città, quindi in quest'area non dovrebbero più verificarsi i fenomeni che hanno portato per esempio al non diciamo non verificarsi i crolli, perché forse non porta benissimo. La responsabile degli scavi parla di investimenti mai privati, ci scrive Giovanni da Mestre. E poi ancora Sergio da Ferrara, togliete Pompei ai napoletani, datelo in gestione ai privati. Prima le parole del ministro Galan, era il 2011, Gianmarco Centinaio, Lega Nord, Commissione Beni Culturali. I privati a Pompei come li vede? I privati a Pompei li vedrei molto bene, anche sempre in quel famoso incontro che c'era stato a Pompei con il ministro, si era parlato anche dei privati, si era parlato anche di alcune aziende francesi che erano interessate, quindi non italiane, che erano interessate ad investire fondi e tanti fondi per quanto riguarda appunto la manutenzione e la valorizzazione dell'area. Purtroppo poi non se n'è più fatto niente, ma i soldi comunque in ogni caso ci sono, perché questi 105 milioni di euro ci sono. Adesso il ministro ha magicamente trovato altri 2 milioni di euro. No, ha scongelato altri 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. Io però mi faccio anche una domanda, sentendo un po' quello che è stato detto prima sulle piogge. Non raccontiamo agli italiani che la colpa adesso dei crolli e delle piogge, perché c'è tutta Italia che è praticamente un'area archeologica a cielo aperto, e in tutta Italia le piogge ci sono, quindi c'è il rischio idrogeologico, ci sono aree archeologiche però che vivono e riescono anche ad evolversi rispetto a Pompei. Pompei è un caso unico nazionale, e le dico solamente questa chicca. Quando sono nella famosa volta che sono andato a Pompei, arrivo in aeroporto, salgo sul taxi e il taxista... Era col ministro? Ero col ministro Brai, però ero da solo, esco dall'aeroporto, salgo sul taxi e un taxista, un signore napoletano, mi chiede dove dovevo andare, gli dico che vado a Pompei, non gli dico che sono un parlamentare. Il taxista mi dice, logicamente sarà una battuta, e mi dice: sa signore qual è il problema di Pompei? Che è a Napoli. Il problema di Pompei è che è gestito, purtroppo, e che si trova in campagna. Se fosse stato in un'altra regione d'Italia sarebbe stato gestito in un modo diverso. Allora, stuzzichiamo, questo detto da un napoletano. Stuzzichiamo il napoletano Antonio Irlando. Napoletana che capisco faccia comodo alle esigenze politiche del senatore, e ho sentito anche il senatore. Ecco, vorrei, giusto per rimanere sulle battute senza accendere il clima, che se volete lo possiamo anche accendere. No, lasciamolo allora, così. La direttrice degli scavi è una donna splendida, capace, è di origini sarde. Il soprintendente che è stato nominato è di origini, credo, lucane. Voglio dire, è vero che si trova in Campania, ma a parte siamo quello, in un territorio che è stato italiano. Quindi voglio dire, come una battuta questa che lascia il tempo che trova e che depista rispetto alle responsabilità che sono, sì, anche locali per ragioni ambientali, ma sono soprattutto strutturali che riguardano la macchina organizzativa del Ministero dei Beni Culturali. Irlando, quanto rende o perde Pompei? Dunque, Pompei potrebbe rendere tantissimo. Un recente studio Mary Lynch parla di un indotto prodotto da Pompei di appena il 5% di quello che è il potenziale. Pompei rende in termini di vendita di biglietti e altri introiti collaterali, ma questo lo può confermare la dottoressa Stefani, intorno ai 20 milioni di euro all'anno. Potrebbe ovviamente rendere molto di più. E cosa manca per farlo rendere di più? Beh, insomma, manca sicuramente un sistema di accoglienza e una migliore distribuzione del pubblico all'interno dell'area archeologica. Mancano servizi collaterali, non so, un antiquarium o dei punti vendita di oggetti. Mancano, una strada più comoda. Sì, sicuramente. Mancano tutta una serie di servizi collaterali che contribuiscono a produrre reddito intorno alla valorizzazione di un bene culturale importante come Pompei. Irlando, abbiamo cominciato parlando dall'Europa, anche se il vice capo del gabinetto del commissario Hahn ci ha un po' rassicurato su quanto, tra virgolette, siano arrabbiati con noi. Ma chi potrebbe arrabbiarsi con noi un giorno o l'altro è l'UNESCO, perché Pompei è sito dell'UNESCO e tutto questo per l'UNESCO conta. Beh, se vogliamo dirla in termini chiari, l'arrabbiatura dell'UNESCO è tuttora in atto, cioè Pompei è stata ammonita dall'UNESCO affinché tutta una serie di azioni, prime fra tutte quelle della conservazione, vengano fatte nei tempi giusti. Fortunatamente il piano di gestione, che è un documento che spiega come viene gestita sia l'area archeologica che tutta l'area collaterale, è stato prodotto. Ora questo documento deve essere messo in pratica non solo dagli uffici di tutela delle sovrintendenze, ma anche dai comuni dell'area limitrofa, sia all'area archeologica di Pompei che a quella di Ercolano, Scabbia, Opronti, un po' tutta l'area vesuviana. Anche su questo, voglio dire, c'è un ritardo. Abbiamo, ecco, come ha detto il segretario di Hahn, abbiamo una serie di adempimenti burocratici, ecco, abbiamo messo alcune carte a posto, ma Pompei non vive solo di alcune carte. Vive di azioni concrete di tutela. Allora, questa mattina abbiamo detto che arriverà il soprintendente Osan e incontrerà i funzionari del servizio del sito archeologico, la dottoressa Stefani sicuramente sarà in prima linea. Se potesse fargli subito una richiesta immediata, quale gli farebbe o quale gli farà? Io volevo prima intervenire, sì, a proposito di quello che è stato detto poco fa. Non mi risulta che Volterra sia in Campania, non mi risulta che la Domus Aurea sia in Campania, non mi risulta che il Colosseo sia in Campania, eppure in tutte queste di problemi edifici ce ne sono. Ci sono stati problemi, quindi non è vero che ci sono problemi soltanto a Pompei. Per cui, insomma, è un po' più ampio. Diciamo che Pompei viene da lontano, ecco. No, il punto è che se a Pompei vola una farfalla ne parla tutto il mondo, è questo il punto. se la farfalla vola in qualunque altra parte del mondo, non se ne parla. E questo, ma è uno dei punti, perché Pompei una cosa è anche un banco pensare. Di prova, cioè certo. Come noi, ci sono i simboli, voglio dire, noi, abbiamo parlato della Concordia, certo. Volo su altro. Pompei è un simbolo, bisogna rendersene certo, conto, va trattato anche come tale forse. Certo, e appunto per quello siamo ben lieti che la comunità europea ci abbia dato questi fondi, e noi abbiamo accettato la sfida di utilizzare questi fondi con tempi molto limitati, e porteremo avanti questa sfida. Quindi allora la domanda, abbiamo ancora due minuti, la domanda che farà la richiesta, che farà la prima richiesta al nuovo soprintendente? Io non farò nessuna richiesta al nuovo soprintendente, gli dirò benvenuto, siamo tutti qui pronti a lavorare con lei. Allora, Francesco da Abano Terme, anche lui ci dice la stessa cosa, Terme Neroniane finite sott'acqua pochi giorni fa, è vero, il progetto sicuramente è ampio. Pronti a lavorare con lei, ma cosa si aspetta, dottoressa Stefani, da questo cambio di passo, se secondo lei c'è davvero il cambio di passo? No, noi siamo già... procedendo con passo veloce. I progetti messi in gara al 31-12-2013, quindi... La domanda che tutti si fanno è: quando li vedremo? Dobbiamo aspettare, avere pazienza? È solo questione di tempo? È solo questione di tempo, sì. Uno, come è pronta a firmarcelo, tra virgolette? Che state, sì. Che davvero è solo questione di tempo? Sì. Posso garantirlo. Gianmarco Centinaio, una battuta velocissima, un'apertura di credito la diamo o no? Ma noi un'apertura di credito la diamo sì, perché sono soldi della comunità europea, c'è l'UNESCO, come abbiamo detto, che ci ha messo gli occhi sopra, lo diciamo tutti che Pompei è l'area archeologica più importante, se non, oltre che d'Italia, forse anche a livello mondiale. Apertura di credito sì. L'apertura di credito sì, però vigiliamo. Però molta vigilanza, perché sappiamo Irlando? Che Pompei siamo stati presi in giro per anni. Irlanda? Questa volta sì. Che dice? Apertura di credito? Apertura di credito sempre, noi siamo sempre per l'apertura di credito, ma per un'apertura di credito vigilata. Ci aspettiamo che il nuovo soprintendente, che è un esterno, e questa è una grande novità, non è la prima e volta speriamo, che accade, speriamo che vada. Incidere sulla macchina burocratica di Pompei. Dottoressa Stefani, apertura di credito, però le faccio una domanda, quando la fissiamo la scadenza per una verifica? 2015? La verifica sui singoli progetti può essere fatta in ogni sì, momento. Sì, ma diciamo per vedere un risultato e dire siamo un po' più tranquilli. 2015? 2015, certo. 2015, apertura di credito per Pompei, vediamo se questa volta sarà davvero così. Noi però il tempo l'abbiamo veramente finito, quindi grazie ancora Antonio Irlando, Presidente Osservatorio Patrimonio Culturale, Gianmarco Centinaio, Commissione Beni Culturali, Greta Stefani, Direttore degli Scavi di Pompei. Da Anna Migliorati ancora una buona giornata, grazie a Peter Bescapè in regia, c'è GR24.